E se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Tu che sei innocente. Tu che non hai fatto niente. Tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato. Allora adesso senti. A questa gente e andare via, ce li ritroviamo in un'altra partecipata. Allora chi si macchia di queste vergogne di appropriarsi di cose, di soldi pubblici, non deve più avvicinarsi a dei soldi pubblici. È semplice. Sì, proprio tu in prigione e che ti serva da lezione. Siamo di nuovo di fronte a un mondo che se ne deve andare. La Clessidra rappresenta l'arrivo di qualcosa che sono 30 anni che non c'è più, che è l'onesto, la persona per bene. Tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Sì, proprio tu in prigione. Andiamo a queste partecipate, sai? Si chiamano partecipate perché bisogna ogni tanto uno partecipa. Io sono azionista, sto tutelando 9 azioni e ho perso già 1,50 euro. Ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, in prigione, in prigione. In prigione, in prigione. Noi le regionali dobbiamo vincere le regionali per poi abolire le regioni, è meraviglioso. Se non vinciamo noi non le aboliranno mai. Beppe Grillo è tornato, tornano tutti in realtà, appaiono tutti in questi giorni. Ieri veramente ho acceso Paolo Del Debbio, quinta colonna, scusate che devo strappare una pagina. Ecco qua. Era la pagina della carta costa, l'ho trovata adesso, ma non voglio spoilerare il finale, vi piace questa cosa, non ve l'anticipo. Alle 7.55 la carta costa. No, comunque dicevo, spuntano tutti. Ieri guardavo Paolo Del Debbio, acceso, c'era Renzi. Porca miseria, ho detto. Ha fatto un ragionamento di tipo 6 minuti e mezzo e poi Del Debbio ha detto: aspetti che c'è la pubblicità. Fa. E Renzi, ma come la pubblicità? Non si può neanche fare un ragionamento qua. Era 6 minuti che parlava. Non si può neanche fare un ragionamento. Te la fa dare una notizia? Sì. La dia veloce perché c'è la pubblicità ancora. Oh, quanto guadagnate in questo periodo? Che miseria, ragazzi. Non si può fare ragionamento. Era 4-5 minuti che parlava praticamente. Non si può fare ragionamento qua. Vabbè, ma vi usciranno tranquilli dalla lavatrice, dal frigorifero, dal forno a microonde. Pare che oggi Renzi si chiuderà a Palazzo Chigi e da mattina a sera a fare, leggevo credo domenica, una decina di interviste a TV locali perché si vota le regionali. È così, e vabbè, c'è Berlusconi che fa interviste, Renzi che fa interviste, Salvini che fa interviste da mesi. Da ovunque, spuntano da ovunque, giri l'angolo, track, c'è i Renzi, vabbè. Allora, questa è 24 mattino, c'è Peter Bescapè, regia, c'è Lorenzo Nespoli. Ieri abbiamo fatto una cosa gravissima, abbiamo subito segnalato su Twitter, gravissima, gravissimissima. Non abbiamo aperto il Parlamento. Ieri non abbiamo aperto il Parlamento, sappiatelo. Adesso. Quindi non avendo aperto il Parlamento, oggi andiamo avanti mezz'ora in più. Parlamento. Allora, voglio salutare un uomo, un mito, un uomo dai pensieri confusi, dal suo percorso mentale. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché? Perché è Vincenzo decidere. Gallo in arte Vincino, eccolo qua. Sono i tuoi quadri. La conoscevi questa di Alberto Fortis? Certo che la conosco. Bella questa, mi sei venuta in mente oggi. Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Dice che sei freddo. Ma una cosa, tu hai detto interviste, ma quale interviste? Un'intervista vera non c'è stata, eh. Ah, no. Tutti monologhi, oh, mamma mia, anche tu a dire. Non gli fanno le domande. Non fanno niente là, non è proprio di quello che vuoi. Tu allora che domanda? Eccolo qua, ecco, che domanda faresti tu a Renzi? Una domanda che nessuno ha fatto, che tu proprio. Come hai scelto questi imbecilli qua per le... come scegli uno come la paita, no? Così, so, così proprio. Mentre c'era Genova sotto l'acqua, lei stava tranquilla a Savona a brindare. Oh, questa è la domanda vagamente tendenziosa di Vincino. Ma con quale criterio? Cioè, li ha sbagliati tutti in queste regionali. Ecco, Renzi ha sbagliato tutti i candidati. Questa non è una domanda, questa è un'affermazione. È una domanda, con quale criterio li ha scelti? Questi? Tanto l'hai già detto. Questa è la domanda. Allora, Vincino, ti presento un altro che fa le domande. Alessandro Giglioli dell'Espresso. Buongiorno, quando ci riesco. Buongiorno. Sì. Tu invece, Giglioli, che domanda faresti a Berlusconi che Fazio non ha fatto? Ma guarda, a me ha colpito quando Berlusconi ha detto mi hanno impedito di andare in TV, sì. E a me veniva naturale, sono stato impedito di andare in TV, e io ho da solo nel mio salottino ho urlato da chi sei stato impedito, sperando che Fazio glielo chiedesse, però Fazio è passata la domanda successiva. Beh, però se aveva, ma no, se aveva un anno di servizi sociali, No, mica poteva. No, l'ha detto, i magistrati mi hanno minacciato. Perché il concetto è se io vado in TV e dico qualcosa contro i magistrati, poi dopo, no? Ma restano di nuovo subito. Ma nessuno gli ha impedito di fare, nessuno gli ha impedito di fare politica. Quindi da chi? Ma poi scusate. Da chi è mancato? Comunque no, a me ha colpito un altro passaggio sempre di quel pezzo lì. Quando Berlusconi ha detto, sapete perché Renzi vince? Perché sta 6 ore in TV. Sapete perché Salvini vince 6 ore a settimana? Sta in TV e io 0. Quindi ha ammesso dopo 25 anni che è la TV che decide tutto. L'ha ammesso lui dopo 25 anni, Berlusconi. Lui in 2 mesi con la TV ha fatto un partito che chi è vecchietto, se lo ricorda. Sì, ma mi ha colpito perché è passata così in cavalleria. Ma in realtà l'ha detto. Aspetta, un'altra domanda. Una delle grandi bugie che sono state diffuse negli ultimi 20 anni. Aspetta, gli è venuta un'altra domanda. Domanda a Vincino. A chi? A Renzi o a Berlusconi? Quando Renzi ha detto. Perché io Berlusconi è stato 20 anni al governo e non ha fatto niente, io invece ho fatto le cose. Scusi, come dire, Prodi, D'Alema, Amato, Piret, eccetera, tutti niente, nulla. Cioè, sì, ma la domanda? Sta passati. No, ma come dire, quando Renzi dice Berlusconi ha governato 20 anni, sì. Come dire, dice. Ah, dici anche D'Alema, Prodi hanno governato 20 anni. Nulla, sono stati Si sa che Renzi, non fatemi difendere Renzi, ma si sa che Renzi rivendica equilontananza, diciamo, anche vabbè. Da D'Alema. Ma poi, ragazzi, scusate, ma c'è una persona vestita di bianco che ha detto che da 25 anni lui la TV non la guarda. Ma legge solo Repubblica. È il Papa. No, fermati. Se uno legge solo Repubblica non capisce niente del mondo. Fermati. Allora il Papa è offeso perché non guarda le sue vignette. Esatto. Dice intanto il Papa ha fatto un'intervista e ha detto io leggo solo Repubblica 10 minuti lo sfoglio perché è vicino al ceto medio. Ora se c'è un giornale questo è il Papa. E ha detto da 25 anni non guardo la TV, Vincino, quindi però non ha detto che non ascolta la radio, Santo Padre. No, la radio forse l'ascolta. Infatti, la radio, poi lo Spirito Santo, tutte le cose del cielo lui l'ascolta. Facciamo però un appello al Papa. No, ma io mi sono chiesto più che altro a quelli dell'Osservatore Romano, se non sono gli girate un po' le scatoline. Avvenire l'Osservatore Romano, effettivamente c'è l'Osservatore Romano, è il quotidiano del Vaticano, del Papa, è il suo. E lui non lo legge. E non lo legge. Non gli piace come è fatto. Vabbè, non lo so. Vincino, vuoi fare una domanda al Papa? Stai attento. Domanda al Papa. No, già dico cosa puoi capire del mondo così? Vabbè, insomma, cosa può capire dal mondo leggendo solo Repubblica? Esattamente, insomma, questo è un problema di tanti, di quelli monolettori, no? Eccoci qua. Non, vabbè, vabbè, non è che il Papa cerca di capire il mondo leggendo un giornale, sa, avrà già ascoltando capito il mondo perché è in contatto diretto col superiore. Oh, dai, ecco, no, appunto, appunto. Semmai ha delle linee privilegiate, non è che deve leggere Scalfari per capire. Per capire come va. Scalfari c'ha un'intesa pazzesca, C'è un'intesa pazzesca. Vabbè, vabbè, allora dai, allora Renzi, ma vi piace questa campagna? No, attenzione, ecco, dobbiamo dire questa cosa, perché lo so. Allora, qui abbiamo Alessandro Giglioli che ha firmato di recente una copertina dell'Espresso su Podemos, è andato in Spagna, c'è Vincino che è scatenato su Podemos. Ma che minchia è Podemos? Ecco, Giglioli, sintetizzata la domanda. Diciamo. Esatto, nel senso, però attenzione, per non fare riaddormentare tutti, sono le 6:40. Lo so che hai paura che dandomi la linea su Podemos io ti faccio stai chiuso. No, cerca di sintetizzarci. Ho scritto un librettino su Podemos che è online digitale, per appunto meno di 3 euro qualcuno lo può comprare, la chiudiamo lì. E dove lo si può comprare? Su Amazon. Come si intitola questo libro? Noi e Podemos. Che a me è venuto, loro hanno Podemos, noi Podevamos, ma... Noi Podevamos, è un po' anche, l'hai detta anche qua in modo sintetico, ma è un po' anche la filosofia che sta alla base di questo libro, che però non è attesa, è soprattutto un richiesto, un tentativo di racconto. Comunque è un movimento di sinistra, questo possiamo loro dire. Loro dicono di non essere di sinistra. Beh, ma cioè, il leader è un professore gramsciano, mi risulta, no? Pablo, sì, beh, loro si ispirano a Gramsci, alla Clau, ma adesso ti addormento tutti. No, esatto. Esatto. Comunque sono sì, io guarda, il mio libro comincia così: in Italia tutti dicono di voler farla a sinistra, non la fanno, in Spagna l'hanno fatta senza dirlo. Ecco. Così, questo, nel senso che loro si dicono non di sinistra, però loro rivendicando una centralità, però in effetti la loro impostazione in termini di politiche sociali, di diritti civili, indubbiamente la di sinistra. Allora, hanno conquistato il sindaco di Barcellona e di Madrid, insomma, due. Quella che occupava le case, tu Milan l'avresti messa in carcere, invece questa è diventata sindaco. Cioè, quella di Barcellona che occupava le case, beh, ma io l'avrei messa in carcere, forse la polizia l'avrebbe messa in carcere se è reato. E invece è diventata sindaco. È diventata sindaco. Tua. Ah, no, la faccia mia, non lo so. Vincino, che domanda faresti al lì? Pure io. Comunque, no, hai fatto anche questo. No, sì, ho occupato le case. Stanno ancora là, nel 70, 4 palazzi, la gente abita ancora là. È uscito pure un film su questo. Hai occupato che casa, Vincino? Al quartiere Zen, mezzo quartiere Zen. A Palermo. Sono occupato nel 70 da un collettivo teatro quartiere in cui c'eravamo anche io. Senti, tra l'altro, scusa Vincino, prima che ti chieda una cosa di Podemos, ma tu lo sai che l'altro giorno ho chiamato Henry De Luca, poi dopo... Sì, ti ha confermato. L'ho avuto ospite Henry De Luca e mi ha confermato che esisteva questo mastino napoletano chiamato Assassino, che era guardia della redazione di Lotta Continua, però del giornale di Lotta Continua, però dice io, però non l'ho dato io il nome Assassino ad Assassino. Però era il terrore, guarda, tutti venivano a trovarsi, niente. Beh, certo. Questo cominciava a ululare da lontano e faceva questi 20 metri di... e tutti scappavano, saltavano, facevano... Cioè, hai capito, Giglioli, a Lotta Continua avevano il cane Assassino. Due erano, Cuba e Assassino. Com'era l'altro? Cuba. Era la moglie. Cuba. Come Fidel Castro. Cuba è assassino. E Henry De Luca ce l'ha confermato. Ha detto, ma lei è amico di Vincino? Fa, sì, insomma, sì, un amico, è 40 anni che non... ha preso un po' le distanze. Sì, abbiamo anche un po' litigato. Avete litigato. Vabbè, comunque, al leader di Podemos, tu come la vedi Podemos dalle tue vignette? Ma io la vedo bene, anche perché poi sono più intelligenti dei loro cugini cretini italiani, perché loro fanno le alleanze. No? Chi ecco, sono i cugini cretini quelli italiani? Quelli là delle 5 Stelle, quelli semideficienti delle 5 Stelle là, che invece non fanno alleanze, fanno niente, e quella per cui o il 51% niente, e per fortunatamente non ci arriveremo mai. Podemos invece fa le alleanze, fa le cose pure con i socialisti, pure con quell'altro, insomma, e quindi arriverà a governare magari con più saggezza, ecco. Ecco. Vabbè, intanto ti ho chiesto di Podemos, ma tu come al solito hai sistemato i tuoi amici. No, sì, certo, hai fatto un complimento se a Podemos Hanno preso il meglio, almeno per ora, poi a peggiorare si fa sempre in tempo, però hanno preso il meglio voi del Movimento 5 Stelle, voi della cosiddetta sinistra radicale. Cioè hanno preso il meglio delle due esperienze, non solo sulle alleanze, per esempio loro la democrazia diretta la fanno veramente, non usano la democrazia diretta per espellere le persone, La usano per creare dei sì, però attenzione, devo dire che oggi su Repubblica, il Papa può confermare, c'è un'intervista, in realtà l'intervista di un giornale spagnolo, di un programma radiofonico spagnolo, a Pablo Iglesias, che è appunto il leader di Podemos. Prima cosa che faremo, ridurci lo stipendio. Questa sembra molto molto stile Movimento 5 Stelle. Sì, hanno molte cose in comune, ma anche la lotta contro la casta e contro la corruzione l'hanno presa molto a Movimento 5 Stelle. E poi, ma, guarda, io adesso così mi faccio ancora pubblicità, ho fatto un lungo capitolo su differenze e somiglianze, potrei intrattenersi per ore. Per ore, no, no, per ore no. Posso dire una cosa, però Podemos erano stati anni a decine di migliaia, a milioni in piazza con Indignados. Sì, è vero, loro. Ma Renzi, oltre ai suoi 100 deputati, cioè, lui ha fatto la marcia con 200 deputati e i loro familiari, ma un disoccupato non c'era nella marcia, vero? No, ecco qua. Invece Podemos mobilita centinaia di migliaia di persone nelle strade, è più l'esercizio di... migliore di l'hai già detto, l'hai già detto. Comunque guarda, sono finito su pagina 3 della Stampa nel frattempo, e un po' è tutto così. Io ho detto loro Podemos, noi Podevamos, e Iena è in spagnolo Podemos e noi non possumus. Vedi che poi alla fine al Papa ritorniamo, sempre al Papa. Posso dire una cosa, una sintesi della campagna elettorale in delle in regionali? Sì. In Liguria questo, o delle regionali? In Liguria, questo trovato a Genova 7 anni mummificato. Ah sì. Dentro casa. Praticamente questa è la Liguria di Burlando. È questa qua. No. Allora, ma perché mi devi far ridere che la notizia è tragica, è vero? C'era un signore che non pagava le bollette, le spese condominiali da 7 anni. Sono andati a bussargli casa perché l'hanno trovato mummificato da 7 anni. È vero, è successo in Liguria. Cosa c'entra? È la Liguria di Burlando. È la Liguria di Burlando, ma così, da 10 anni mummificato. E dopo hanno preso la capa mummia, la paita, moglie del capo del porto, per cui un conflitto di interessi pazzesco, la maggiore azienda della regione, il porto di Genova. Non mi sta molto simpatica la paita, comunque devo andare al traffico, c'è però prima un editoriale stringato di un ascoltatore, credo uno che ha votato Podemos, che dice: Vincino sei un coglione, questo punto, traffico. Massima di Confucio. Ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta 24 mattino. Ciao Ale, ma davvero tu vuoi solidarietà perché lavori il 2? Guarda, io lavoro il 30, il 31, l'1, il 2 e via pedalare perché mi mettono una penale. Ciao ciao. Buongiorno Milan, ha visto in Irlanda che stanno a fare? Si decide una cosa importante, decide il popolo, i cittadini, con un referendum. No come non in Italia, che qua si decide una cosa importante, qualsiasi cosa importante decidono sti grandi coglioni di politici. Gli inglesi e i francesi, altro che sottrarsi, si prendono tutti quelli che vengono dalle ex colonie loro, tutta quella gente che loro hanno sfruttato per secoli, per decenni, che hanno lasciato in miseria, adesso se li devono prendere loro. Ciao Alino, penso che il signor Giglioli sia ormai da tutelare, un po' come i panda, perché ormai fa parte di una categoria in via di estinzione. I comunisti! Eccolo qua, il comunistone Giglioli. Ah, oh, beh, interessante che mi tuteli. Però io non sono mai stato neanche da giovane. Mai stato comunista? Vabbè, ma dai, per la gente è schematica. Ma i comunisti sono quelli che adesso votano Re. No. Allora, il popolo ragiona per schemi. Scrivi sull'Espresso, quindi già sei un po' comunista. Già un po'. Sì? Beh, sì, scusa. Ah, il mio direttore, però, che mi considera anche un po' eretico, comunque. Va bene, dai. Ma è normale, dai, così. Però, insomma, non sei mai stato comunista? Ah, ho lavorato anche al giornale di Montanelli, tanto comunista sono, pensate. E vabbè, infatti ti hanno cacciato dal giornale. No, tu e io, non esageriamo, hanno cacciato altrove, ma non da lì. Scherzo, ovviamente. Va bene, ma chi non è mai stato cacciato una volta nella vita? Esatto, siamo con Vincino. Vincino, ecco, c'è anche questo messaggio. Adesso, no, adesso divento serio perché la gente mi arrabbia. Allora, Vincino troppo, è così, fa satira e vabbè, a parte gli insulti, anche questo lo insulta. Ma che aggiunge questo messaggio? Se ti trovo per strada, Vincino, ti riempio di schiaffi, vecchio terrone e poi comunista. Di vabbè, che anche Vincino, comunista. Che esatto, peraltro, comunista non lo è mai stato. Se non sbaglio, mai anarchico. Anarchico. Il primo che si permette. Se incontra Vincino di alzare anche mezzo dito nei confronti di Vincino, lo vado a prendere con assassino e Cuba. Con assassino, ma nessuno ti ha minacciato. Con assassino e Cuba, con assassino e Cuba. Ecco. No, perché cioè, adesso va bene tutto. Lui fa satira, si esprime così. Ma il primo che alza un dito nei confronti di Giglioli è Vincino. Oh, bravo, ecco appunto. Allora, però Vincino anche tu te le vai un po' a cercare ogni tanto, ecco. No, che t'han fatto quelli del Movimento 5 Stelle? No, niente, assolutamente, no, ma come che m'han fatto? Potevano essere Podemos e sono invece un disastro, eccolo. È un'occasione sprecata in parte, no? E poi con c'hanno quel deficiente di capo là, quello che va, che compra le azioni, sa, un'azione di qua, un'azione di là, un'azione di là, e lui fa campagna elettorale così, partecipando ai... alle partecipate. Vabbè, allora sentite qua Salvini ha fatto un'azione che in campagna elettorale non è dettata da campagna elettorale, Giglioli. No. Sai quando fece i cori antinapoletani eccetera, ha chiesto scusa ufficialmente. Ecco, questi erano i cori. In mano circondato da militanti leghisti. Questi erano i cori, no? I cori da stadio. Ma Salvini chiede scusa. Sentite qua. Quante sciocchezze ha detto in campagna elettorale? Una se la toglie almeno? Un paio. Una quella sui napoletani. Il coro da stadio. E io sono ultra, sono tifoso, seguo il Milan da quando ho 5 anni, quindi può essere il Napoli, l'Inter, l'Atalanta, la Juve. Bravo, quindi per quello ho già chiesto scusa, perché lo stadio, la realtà è la realtà. Tutto il resto lo risottoscriverei, dalla legge Fornero alla castrazione chimica, allo sgombero dei campi rom abusivi. Tutto il resto, anzi, non lo sottoscriverei, lo farò. Questo, per questo invece chiede scusa. Le sedie negli autobus speciali. È vero, le sedie per le sedie, i vagoni speciali della metropolitana per chi erano? Per quelli fuori di Milano, no, non è che, perché poi lui divide Milano fuori di Milano. Sì. Prima divideva così, però quel coro non mica l'ha fatto allo stadio, l'ha fatto a una festa della Lega, erano fuori dallo stadio. È vero. Tra tanti insulti, devo leggere questo messaggio di Chica da Novara. Vincino, ti amo da quando avevo 14 anni e leggevo Il Male. Oh. 14, 30, ne hai 44, 45. Va bene, ci siamo. Vincino è come quegli anziani cantanti rock che hanno ancora le gruppi per ripetere fatti negli anni 70. Cosa vuol dire? Ci siamo? Cosa vuol dire? Vuoi conoscere Chica da Novara? Se Novara, se passa a Novara, andiamo a prenderci uno spritz, un coso. Uno spritz a Novara per Chica. Paga Vincino, ovviamente. Allora, paga Vincino. Novara paga Chica, scusami. Ma dai, su! Ma Giglioli, digli qualcosa, ma è un disastro. Bene. Ma come fa bene? Campa in qualche modo, dai. È un disastro. Uno spritz, un negrone. È un disastro. Negroni, Martini. Vabbè, Giglioli, qua dobbiamo concludere. Vuoi lasciarci una conclusione di quell'effetto? Ti è piaciuta sta campagna elettorale? No, come tutte le altre. Ma ne abbiamo viste di peggio, dai. L'unica cosa che mi pare che a questo giro delle regioni, in quanto regioni, non gliene freghi assolutamente niente a nessuno. L'unica cosa che è venuta fuori in campagna elettorale un po' interessante sono state le questioni della Liguria, diciamo, perché è lì che si misura la potenza del Partito della Nazione, che ha perso un pezzo a sinistra, quindi vediamo se prende più o meno di quando non l'aveva perso. Per il resto abbastanza noiosetta. Noiosetta come tutte le campagne elettorali. Io ho twittato di recente, meno male che sto giro non voto. Anche i 30 euro a voto là in Puglia sono un bel colpo. I 30 euro a voto, che il Fatto Quotidiano ha detto. Purtroppo nulla di nuovo. Diciamo. Nulla di nuovo neanche questo, se è confermato. L'unica cosa nuova è un po' quella della Liguria come fenomeno nazionale. Andremo tutti a capire che cosa succederà in Liguria. Oh, che dobbiamo fare? Intanto vi devo salutare. Vincino e Alessandro Giglioli, grazie, alla prossima. Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci. Dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia torna a pedalare e lo fa con una tappa tutta in salita. 16ª tappa, Pinzolo-Aprica, 174 km da far tremare i polsi e gambe a tutti quanti. Da scalare in sequenza Campo Carlo Magno, subito in partenza, poi il Tonale, l'Aprica, il Mortirolo e il ritorno all'Aprica. Settimana finale, settimana decisiva, c'è terreno per poter fare qualcosa, anche se per mettere in crisi il Contador visto fino ad oggi occorre davvero qualcosa di importante. Per sfilargli da sotto il naso un giro che sembra ormai vinto ci vuole forza ma anche tanto, tantissimo coraggio. Occorre un'impresa, forse anche più di una, in questa settimana cruciale. Contador nella conferenza stampa di ieri pomeriggio ha ribadito che questo giro non è chiuso. Da parte sua Fabio Aru ha detto di volerci provare fino alla fine, pur riconoscendo la superiorità fin qui mostrata dal fuoriclasse spagnolo che si avvia a vincere il suo 7º grande giro della carriera. Oggi primo round sul Mortirolo, chi ha forza e coraggio va dall'attacco. Non è da escludere però che ad attaccare sia lo stesso Alberto Contador, Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pinzolo. Voci dal Giro, in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente, vai su ingiroperlavoro.it, puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta... 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e oggi di cosa parleremo? Beh, parleremo di questa lista di impresentabili. Oggi verrà annunciata dalla Commissione Antimafia, avremo ospite il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle che fa parte di questa commissione, così come parleremo di divorzio breve, il divorzio breve, parte il divorzio breve, ne parleremo oggi con l'onorevole Morani che è una delle due deputate, dei due deputati che ha lanciato questa idea del divorzio breve e l'ha fatto approvare in Parlamento, e ne parleremo anche con Marione Adinolfi, spesso su questi temi molto controverso nelle sue posizioni, molto criticato, ma noi lo ospitiamo qui e ascoltiamo le sue ragioni. Ne parliamo dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 26 maggio, intanto i titoli, molta parte dei titoli di oggi sono dedicate a quello che succede in Europa. Per esempio Atene, rischio Atene, cadono le borse, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Oppure su Repubblica, Spagna e Polonia, sfida all'Europa dopo le elezioni. Il titolo invece della Stampa, lavoro e fisco, Europa da rifare. Il Messaggero, effetto Spagna e caos Grecia, gli euroscettici scuotono l'Unione Europea. Anche per il Secolo XIX il titolo di prima pagina è Le crepe dell'Europa, mentre il Manifesto mette la foto della vittoria di Podemos in Spagna, il titolo è Lo sfratto, Barcellona e Madrid conquistate. Anche per Avvenire, Europa sotto stress, questo è il titolo di prima pagina, mentre sull'Europa si concentra il Corriere, ma un altro genere di Europa, migranti, un colpo all'Italia. I limiti sulle quote sono trasferibili all'estero, solo eritrei e siriani dei futuri sbarchi. È una novità che c'è solo sul Corriere, davvero non positiva per il nostro paese. Il Fatto Quotidiano invece ha un'inchiesta in prima pagina, l'imbroglio delle Poste, spioni e lettere truccate. Mentre Libero continua la campagna sui vitalizi, il governo dei doppi vitalizi. Per il Giornale invece, ora Renzi ha paura, le regionali. Ma io voglio partire dall'intervista che ha rilasciato il Papa e che ha fatto discutere, fa discutere in tutto il mondo, perché è un'intervista molto intima, nella quale il Papa parla di sé, insomma molto umana. Il Giornale è la voce del pueblo. È un'intervista che Repubblica mette a pagina 18, forse capirete perché tra poco la traduce Repubblica e la mette in pagina, l'intervista di Juan Berretta. Allora il Papa parla di sé. Che cosa le manca, Santità? Beh, uscire per strada, andare in pizzeria. Beh, può farsi mandare la pizza a domicilio in Vaticano? Sì, ma non è la stessa cosa, la cosa bella è andare lì. Io non giro per la città. Immaginate che io esca per strada, cosa si scatenerebbe? Un giorno sono uscito in auto con l'autista, mi sono dimenticato di chiudere il finestrino, ero aperto e mi si è scatenato il putiferio. Ma quindi lei è legato al suo modo di essere? Ma sì, qui mi considerano un indisciplinato, il protocollo non lo seguo molto, il protocollo è molto freddo, ma ci sono cose ufficiali che seguo scrupolosamente. È Papa Francesco che parla. Lei piange? Piango quando vedo drammi umani. In pubblico non piango. In due occasioni sono stato quasi sul punto di farlo, ma mi sono frenato in tempo. Ero talmente commosso che qualche lacrima mi è sfuggita. Ricordo un'occasione, stavo parlando delle persecuzioni subite dai cristiani in Iraq. Riguardo invece alle paure, ma io non ho grandi paure. Quanto agli attentati, dico nelle mie preghiere: se deve accadere, che accada. Ti chiedo solo, Dio, una grazia, non farmi sentire dolore, perché davanti al dolore fisico sono codardo. Eccolo qua poi la parte, il motivo per cui Repubblica mette in pagina questa intervista, probabilmente. Lei segue ciò che si pubblica? No, io leggo un solo giornale, Repubblica, che si rivolge ai settori medi, lo sfoglio la mattina per non più di 10 minuti. Quanto alla TV, la TV non la vedo dal 1990, 25 anni. Ma c'è un motivo particolare? Mi sono detto, questo non fa per me. E ho fatto un voto alla Vergine del Carmine. Era la sera del 15 luglio 90. Ma scusi, non vede neanche le partite di calcio del suo San Lorenzo? No. E come fa a sapere i risultati? C'è una guardia svizzera che ogni settimana mi fornisce risultati e classifica. Ma tra i vari papi, lei si vedrebbe come un Messi o un Mascherano? Cioè, qui siamo alle metafore calcistiche. Non saprei che dire, dato che non vedo il calcio, risponde il Papa. Messi è venuto qui 2 volte, ma non l'ho visto giocare. Beh, questa, devo dire, Santo Padre, è un po' una piccola sfortuna. Forse uno strappo alla regola per vedere un paio di gol fatti da Messi in passato, e un paio che spero farà anche il 6 giugno. Forse uno strappo alla regola dovrebbe farlo. Comunque, c'è l'intervista al Papa su pagina 18 di Repubblica, come detto un'intervista molto molto umana, alla fine si conclude così: come vorrebbe essere ricordato, come un bravo uomo, una brava persona che ha cercato di fare del bene, non ho altre pretese. Così il Papa. C'è anche Vittorio Feltri sul giornale che fa una sorta di pubblicità di la stranezza di un Papa che legge solo un giornale favorevole alle nozze gay. Questo è il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri, che dice il Papa magari ampli i suoi orizzonti, legga un po' del Corriere della Sera, della Stampa, del Giornale. Aggiungo io, legga il Sole 24 Ore, ascolti Radio 24. Vabbè, insomma, siamo un po' alla follia. Vabbè, comunque... c'è la lista degli impresentabili, ne parleremo dalle 8:15, l'anticipazione di ieri era del secolo XIX, impresentabili c'è la lista, partiti in allarme, una pagina del Corriere della Sera, pagina 13, oggi dovrebbero essere resi noti i nomi da parte della Commissione Antimafia, i partiti sono in allarme, scrive il Corriere della Sera. Tommaso Barbato, che è in corsa con De Luca in campagna, assicura di non essere preoccupato per l'inchiesta della Procura di Napoli che lo vede indagato per voto di scambio. Poi si parla di 3 candidati finiti in liste, in questi impresentabili: Antonio Amente, Attilio Malafronte, Luigi Sorianiello. L'ex deputato Arturo Iannacone però li difende. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Antonio Scalzone, finito in lista con Caldoro, ma l'ex sindaco di Castel Volturno si è ritirato. Per il Mattino di Napoli potrebbe essere nell'elenco anche Alberico Gambini di Fratelli d'Italia. Comunque la Bindi, Rosi Bindi, presidente della Commissione Antimafia, dice: sono tutte indiscrezioni prive di fondamento. Vedremo oggi i nomi. Secondo il Secolo XIX, che ieri ha fatto l'anticipazione, sono le liste civiche a finire nel mirino dell'antimafia. Così Ilario Lombardo e Marco Menduni scrivono a pagina 5. Noi cercheremo di capire qualcosa dal senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle, che fa parte della Commissione Antimafia, sarà ai nostri microfoni più tardi. Mentre ieri avete visto lo show di Beppe Grillo, qualcosa abbiamo sentito, è andato alla riunione delle Ferrovie Nord, dove sapete c'è stato un terremoto al vertice, i magistrati hanno sospeso il presidente. Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, giornale che da tempo porta avanti una campagna sulle spese pazze di Ferrovie Nord, torna su questa vicenda. Marco Lillo, tra l'altro, si è iscritto anche lui, ha preso delle quote, delle azioni, e quindi è andato all'assemblea dei soci e ha fatto delle domande. Marco Lillo a pagina 12, il titolo è questo: Ferrovie Nord rivela al legale di Maroni lavori da 150.000 euro. Durante l'assemblea dei soci, l'ammissione su domanda del cronista del Fatto, l'avvocato Aiello, legale tra gli altri di Maroni, avvocato anche di Ferrovie Nord, ma a sua insaputa, eccolo qui, aggiornare la lista. Perché a sua insaputa? Perché aveva detto in una vecchia intervista: non ho avuto alcuna consulenza da Ferrovie Nord Milano. Ma ieri la conferma di Antonella Tiraboschi, il responsabile del servizio legale, che dice: confermo consulenze che esistono. Due. La prima un incarico giudiziale, oggi abbiamo speso 25.000 euro. L'altra una consulenza da 10.000 euro. Ma il Fatto Quotidiano dice che potrebbe arrivare in realtà l'elenco delle consulenze di incarichi a 150.000 euro. E vabbè, si possono avere evidentemente anche delle consulenze a propria insaputa, così racconta il Fatto Quotidiano. Ma siamo al momento della carta costa. No. Siamo al momento Mani sul volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. Vi invito, come sempre, gli oggetti contundenti ad appoggiarli un attimo. Torna sulla scena l'ex commissario della Spending Review, Carlo Cottarelli, che, come racconta Sergio Rizzo, ha scritto un libro che uscirà nei prossimi giorni. Il libro si intitola La lista della spesa, lui che doveva tagliare la spesa pubblica. E si legge in questo libro, nel quale Cottarelli, scrive Sergio Rizzo, non ha sassolini da togliersi dalla scarpa, però, come dire, racconta un po' di cose. Per esempio, sapete quante sedi ministeriali decentrate ha scovato Cottarelli? 10.000! 10.000! Sapete quante? Allora, sono 5.700 sedi territoriali, numero al quale si aggiungono 3.900 uffici di enti vigilati dai ministeri, un totale di 9.600. Il Fatto spiega Cottarelli che lo Stato delle regioni è ancora organizzato sul modello delle 110 province. Alle province, anche Sergio Rizzo si chiede: abolite? Col punto di domanda. No, rispondiamo noi: no, non sono abolite. E allora ci sono: il Ministero dell'Economia ha 103 commissioni tributarie, 102 comandi della Guardia di Finanza, 97 uffici dell'Agenzia delle Entrate, 93 ragionerie territoriali dello Stato, 83 uffici delle dogane. La giustizia ha 109 archivi notarili, il lavoro 109 direzioni, l'istruzione 104 uffici scolastici, 108 sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'interno ha 106 prefetture, 103 questure, il Corpo Forestale ha 98 comandi locali, il Ministero dei Beni Culturali ha 120 soprintendenze e archivi di Stato, lo sviluppo economico vigila su 105 camere di commercio, che a loro volta hanno 103 camere di conciliazione. Evviva! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. Sembra che siamo intesi, no? E allora, picciotti. Allora, io partirei dalle notizie internazionali che oggi hanno molto risalto, cominciando dalla Spagna. La Spagna, dove ha vinto il movimento Podemos, ha vinto in alcune città, per esempio ha conquistato Barcellona e Madrid, e dite poco. Con i due sindaci non sono riusciti a diventare la seconda forza, ma con i socialisti possono scalzare la prima forza, il PP, in molte amministrazioni. Allora, è interessante, ovviamente sono subito partiti i paralleli tra Podemos e il Movimento 5 Stelle in Italia. Intanto è interessante leggere un'intervista al leader di Podemos, la trovate su Repubblica, pagina 2-3, Pablo Iglesias, viene intervistato da Cadena Ser, cioè una radio, in questo caso è una serie di emittenti anche TV, e l'intervista è riproposta da Repubblica. Dice Pablo Iglesias, 36 anni, leader di Podemos fondato nel 2014, la prima cosa che faranno i nostri deputati sarà ridursi lo stipendio. Speriamo che tutti capiscano qual è il messaggio che hanno dato i cittadini, si rendano conto che per intendersi con noi non si possono applicare le politiche di austerità che sono state realizzate fino ad ora. Le istituzioni servono per difendere la gente. E alla domanda... è disposto a offrire i voti di Podemos se servono al cambiamento? Risponde Iglesias, il problema è che il cambiamento si deve concretizzare programmaticamente. Siamo nella fase in cui le parole smettono di essere slogan che appaiono sui manifesti elettorali e si trasformano in politiche sociali. Una parola non basta per intendersi con noi. Cambiamento vuol dire tolleranza zero su corruzione, scommessa sulla difesa dei diritti sociali e limitare la politica dei tagli. Non ho ricevuto telefonate da Rajoy, Sanchez, Rivera, cioè gli altri leader, devo dire non mi ha chiamato nessuno, ma devo dire che neppure io ho il loro telefono. Ho sentito però Ada Colau, cioè la loro eletta sindaco di Barcellona, così come Manuela Carmena, a Madrid ho potuto sentire la grande soddisfazione per questo risultato storico a Barcellona e Madrid. Certo, si guarda molto alla Spagna, guarda anche Renzi alla Spagna, al titolo del retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera è questo: messaggio da cogliere, Renzi chiede un'Europa costruita dal basso, anzi racconta il Corriere che Renzi ai suoi dice: noi penseremo ai prossimi 12 mesi in cui l'economia cresce e penseremo soprattutto all'Europa. È un Renzi che è volto soprattutto a quello che succede in Europa, tanto che avrebbe detto ai suoi: lasciate perdere Bersani e le beghe da quattro soldi interne. Certo, in questo retroscena di Maria Teresa Meli c'è una frase che a un certo punto mi ha colpito molto, mi ha molto colpito. A un certo punto leggevo e mi sono imbattuto in questa frase: dunque la guerra di Renzi nei confronti dell'Europa non si è fermata, perché ora Renzi è il leader più votato in Europa. L'ho dovuta rileggere 5 volte. Ora Renzi è il leader più votato in Europa. Ma veramente sì, alle elezioni europee il PD, cioè un'elezione diretta di Renzi alle politiche non c'è mai stata. Però vabbè, l'ho dovuta rileggere 5 volte, ho fatto mente locale, ma non mi sembra di essermi perso qualcosa. Comunque questo sul Corriere della Sera a pagina 3. Vabbè, le battute si sprecano, io ho messo su Twitter: loro Podemos, noi non noi Podevamos. Iena a pagina 3 della Stampa la mette così: in spagnolo Podemos, in italiano non possumus. E vabbè, capite che le ironie si sprecano e le esemplificazioni di quella che è l'analisi politica in Spagna comparata a quella italiana ci sono. L'altro grande fronte internazionale a cui tutti guardano è Atene, la Grecia. Atene intanto ha fondato le borse, come racconta il Sole 24 Ore in apertura, e poi l'analisi di Vito Lopsa a pagina 3, il BTP torna al 2%, Piazza Affari a Madrid anche in calo di oltre il 2%, certo la settimana finanziaria è partita molto molto male. Le poche borse europee aperte hanno accusato il colpo. Dichiarazioni arrivate nel weekend dagli esponenti governativi greci non sono passate inosservate, cioè quel non pagheremo il Fondo Monetario Internazionale le rate dovute. Tanto che c'è un'intervista interessante di Aldo Cazzullo a Romano Prodi a pagina 6 del Corriere della Sera, perché in questa intervista guardate che Romano Prodi, ex presidente della Commissione Europea, ex presidente del Consiglio, parla in maniera esplicita di quello che intanto definisce un lunedì nero per l'Europa. Il precipitare della crisi greca, sì, mi riferisco alla Grecia, ma anche in Spagna dove crollano i partiti, Francia e Inghilterra si sono chiamate fuori dall'accordo sugli immigrati. La notizia peggiore però è il voto polacco. Vince Duda, un voto straordinario in negativo, si intende. Così dice Prodi. E poi quando si parla di Atene, ecco che Prodi dice: tanto tuonò che piove, ormai è chiaro che la Grecia tanti soldi da pagare non li ha. Lo sapevano tutti, il 25% dei greci è disoccupato, il reddito è crollato molto di più di quanto si attendessero i fautori dell'austerity. La Grecia non ha lo sfogo dell'export che ha l'Italia, la Grecia esporta meno della provincia di Reggio Emilia, vive di noli marittimi, un po' di cemento e un po' di turismo. Se crolla il reddito interno, crolla tutto. Ma Tsipras o Varoufakis non hanno colpe, chiede Aldo Cazzullo. I greci, risponde Prodi, ha mostrato una sbruffoneria che ha mal disposto i negoziatori. Ho notato un'irritazione progressiva nei loro confronti. Tirare fuori il nazismo non ha aiutato. Schäuble, cioè il ministro dell'economia tedesco, non lo puoi prendere in giro. Purtroppo, invece, lui può prendere in giro te, perché è forte. Ma sentire i soliti pregiudizi sulla pigrizia mediterranea è un altro segno di disgregazione. Insomma, Prodi sintetizza, siamo alla canna del gas. Ma riguardo all'uscita della Grecia dall'euro, c'è ancora spazio per un accordo a due condizioni, che sia chiaro e che sia subito, non è più possibile un altro rinvio. E poi Prodi continua l'analisi su quello che succede nel caso della Grexit, cioè dell'uscita della Grecia. Insomma, un Prodi che parla molto chiaro a dire hanno sbagliato un po' tutti, i greci troppo sbruffoni, i tedeschi però troppo duri. È bella però questa metafora, molto molto realistica. Tu, Grecia, non puoi prendere in giro Schäuble, lui sì, perché lui è forte. È molto emblematica, no, di come funziona l'Europa. A proposito di Grecia, su Libero finisce la proposta dell'ex direttore generale di Confindustria, che ora è un deputato, Galli, del Partito Democratico, che propone una tassa per aiutare la Grecia. Un'altra tassa. Atene si smentisce ancora, pagheremo, questo è il titolo di Libero, ma soprattutto la notizia della proposta di una tassa. C'è soltanto questo tweet di Galli: Grecia, default o exit sarebbero devastazione per loro e l'Unione Europea, non possiamo consentirlo, occorre una tassa per la Grecia. Non lo so, io preferirei non pagarla. Mauro Meazza, tu? Buongiorno, buongiorno. Ma è difficile, perché se vedi le pagine 2 e 3 di oggi, proprio dedicate dal Sole 24 Ore alle vicende di Atene, insomma, è chiaro che no, magari non volemos, però bisognamos che paghiamos. Ti volevo segnalare, perché in realtà mi ha colpito molto la vignetta di Domenico Rosa oggi, se puoi farla vedere agli ascoltatori, che mostra appunto questo binomio Spagna-Grecia, e la Spagna che dice Podemos e la Grecia no Podemos, cioè non Podemos pagar, probabilmente è riferimento. Ma non c'è solo questo. Tra l'altro, Prodi, sentivo prima che stavi raccontando agli ascoltatori, parla dell'export. Ad esempio, sul Sole 24 Ore oggi scriviamo che l'export nostro nei paesi extraeuropei sta andando bene, è cresciuto del oltre il 12% nell'ultimo anno. Questo è un buon segnale, insomma, facciamo gli scongiuros magari, però è un buon segnale, così come un buon segnale quello del risveglio un pochino dei contratti a tempo indeterminato, ne parliamo naturalmente sul Sole 24 Ore. Poi oggi è martedì? Oggi c'è il martedì. Ma bravo, perché è importante, perché tra l'altro, oltre a spiegarti come si compone correttamente un verbale, come si redige un verbale, diciamo anche che il condominio potrebbe anche intestarsi un'automobile. Allora, perché ti parlo non lo so, magari non vorrei che poi fossero auto blu di condominio, però lascio con questo dubbio, ti rimando alle pagine di condominio. Ricordati che domani ti diamo la guida alla voluntary disclosure. Trafficos. Monge, alimenti naturali per cani e gatti con tanta carne fresca italiana, vi presenta Alessandro Milan, le occhiaie dell'informazione. Non male, come fai a conoscermi, caro ascoltatore? Le occhiaie dell'informazione. Vabbè, che dobbiamo farci? Allora, parliamo di immigrazione, perché sul Corriere della Sera c'è una notizia importante. Una notizia, questa sarebbe anche questa, da mani sul volante. È stata davvero l'idea per vincere. Fiorenza Sarzanini a pagina 11: guardate qui la grande Europa, l'Europa solidale, l'Europa unita, l'Europa che pensa di ragionare come un corpo e una mente unica. L'Unione Europea, dall'Italia solo eritrei e siriani e il piano sarà valido solo per i nuovi sbarchi. Sapete tutta la questione della ripartizione delle quote? L'accordo beffa sui migranti, questo è il sottotitolo del Corriere della Sera. La distribuzione di migranti in Europa riguarderà solo i nuovi arrivi. Nessuno tra gli stranieri già presenti in Italia potrà essere trasferito in un altro Stato. Alla vigilia della riunione prevista per domani, la Commissione europea mette a punto il nuovo piano di accoglienza e gela le aspettative di chi nel nostro Paese pensava che la partita potesse essere chiusa. L'opposizione di Francia e Spagna, oltre Ungheria e numerosi altri membri, pesa sulle scelte del presidente Juncker e porta a rivedere alcuni punti che sembravano decisi. È vero che rimane fissata la quota di 24.000 persone da mandare altrove, ma questa cifra dovrà essere spalmata su 2 anni e comunque non potrà comprendere tutte le nazionalità. Riguarderà appunto solo eritrei e siriani e le persone che arriveranno in futuro. Questa almeno è l'anticipazione del Corriere della Sera e lasciatemi dire che questa era proprio da mani sul volante. Attenzione, c'è un allarme, salto su Repubblica, lo lancia Liana Milella, pagina 9. È un allarme per i conti pubblici italiani, già disastrati, già colpiti dalla recente sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, che hanno aperto un buco da 20 miliardi di euro. Ora c'è un rischio di un'apertura per una nuova sentenza della Corte Costituzionale di un buco nei conti di 2,5 miliardi. Tanto che, scrive Repubblica, Equitalia preallerta la Corte Costituzionale. C'è una sentenza sull'aggio che può costare 2 miliardi e mezzo. Qui Liana Milella scrive: un buco da 2 miliardi e mezzo con conseguenze devastanti sul bilancio di Equitalia, conseguenze che si ripercuoterebbero in definitiva sull'intero bilancio dello Stato. Firmato Equitalia Nord, destinataria la Corte Costituzionale. Allarme protocollato lo scorso 5 maggio, 6 giorni dopo la sentenza della Consulta sulle pensioni. Equitalia dunque non si fa prendere in contropiede in vista di un'udienza pubblica che si svolgerà stamattina e in vista della decisione sul ricorso delle commissioni tributarie di Torino e Latina contro il calcolo dell'aggio sulle riscossioni, che potrebbe essere anche di inammissibilità, Equitalia aggiorna la sua memoria di 2 anni prima e lancia l'allarme sul potenziale buco. Quando ancora la polemica sui dati delle pensioni non è ancora esplosa e né il ministro dell'economia Padoa né il presidente della Consulta Criscuolo si sono sfidati a fioretto sulla questione, Equitalia invece si era già coperta le spalle. Intuisce che un'eventuale decisione della Consulta favorevole ai ricorrenti avrebbe effetti devastanti sui suoi conti e avverte la Corte Costituzionale. È tutto da vedere se oggi, dopo l'udienza pubblica, la Corte come valuterà. È un ricorso che è stato sollevato da Stefano Longhi, che aveva impugnato la sua cartella di pagamento, e da Latina il 29 gennaio invece un altro ricorso di Anna Cacciotti, questioni identiche sull'aggio, sono finite in Corte Costituzionale. Se questi due ricorsi potranno essere, verranno accolti, c'è il rischio, dice Equitalia, di un'apertura di buchi di buco nei conti pubblici di 2 miliardi e mezzo. Staremo a vedere. Intanto, cari ascoltatori, come vedete non vi ho tediato con i particolari della campagna elettorale per le regionali. Spuntano da tutte le parti i politici. Renzi, Berlusconi, Salvini, Meloni, tutti. Escono da tutte le parti. Alfano, Grillo, il Movimento 5 Stelle un po' meno in TV perché hanno questa idiosincrasia per la TV, ma comunque dovunque. Tanto, come ve la devo sintetizzare? Berlusconi, se vinciamo 4-3 il governo va a casa. Renzi, se vinciamo noi cambio il PD. Grillo, se vinciamo alle regionali aboliamo le regioni. Ecco, insomma, questa è la campagna elettorale. Poi vinca il migliore e vedremo e commenteremo. Tra l'altro lunedì faremo uno speciale di 2 ore, saremo in onda fino alle 10 con 24 mattino per parlare delle regionali. C'è poi che cosa di cronaca? Beh, di cronaca voglio saltare subito sulla questione del derby di Roma, che è stato vinto dalla Roma, doppio colpo Roma, questo è il titolo della Gazzetta, ma quello che ha fatto più notizia ancora purtroppo sono le violenze. Pagina 2 e 3 del Messaggero si raccontano gli accoltellati, soprattutto parlano Massimo Ceci, 38 anni, e Daniele Sellitri, 31, tifosi della Roma, feriti con coltellate poco prima della partita. dicono di un'aggressione perché ci hanno individuati, avevamo la maglia della Roma che per noi è una seconda pelle, si sono avvicinati coi coltelli, Massimo Cece è stato ferito lievemente mentre Daniele Sellitri più gravemente con ferite all'addome, un agguato in piena regola, una vera imboscata contro due tifosi inermi, tra l'altro c'erano infiltrati, racconta il Messaggero, pensate c'erano tifosi del Feyenoord, sapete quella squadra di tifosi che sono venuti a devastare, no? Nella curva della Lazio, infiltrati stranieri per questo derby. Anche la Gazzetta, due accoltellati, derby horror già visto. Vabbè, che dobbiamo dire, complimenti alla Roma dal punto di vista calcistico, ma certo questa potevano ancora risparmiarsela. Siamo in diretta su Periscope, eccoci qua, siamo su Periscope per la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali oggi è una pagina intera del giornale sui selfie. I selfie ancora, ma non è la prima volta. Il selfie, l'arte di costruire il mito effimero di se stessi. Una pagina con il libro di selfie di Kim Kardashian, però. Kim, la Kardashian, Ma chi se ne frega? Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas, randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, forse non ve ne siete resi conto, ma da oggi cambia un pezzo di storia dell'Italia. Intanto siamo partiti da lontano, 41 anni fa. Scusi signor Maffei, lei è da 20 anni un marito e un padre felice. È soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle colpe. Era il 1971, Nino Manfredi diceva no all'abolizione del divorzio nella campagna referendaria. Ne abbiamo fatta di strada da allora, il divorzio ormai è abbastanza accettato nella quotidianità, può succedere, ma dicevo da oggi cambia un pezzo di storia, di questa storia italiana. Moltissimi credo di poter dire, penseranno che cambia in meglio, altri, mi azzardo a dire una quota minoritaria, ma è il mio parere, penseranno che cambia in peggio. Oggi entra in vigore la legge sul divorzio breve. Per dire la novità maggiore, i tempi della separazione necessari prima di chiedere il divorzio passano da 3 anni a 6 mesi in caso di separazione consensuale o da 3 anni a 1 anno, quindi scendono di molto in caso di separazione non consensuale. Allora, per questa legge si è dibattuto per anni, più di 10 anni in Parlamento inutilmente, poi è successo che una legge bipartisan, come si dice in questi casi, portata avanti da un deputato di Forza Italia, Luca D'Alessandro, e da una deputata del PD, Alessia Morani, è stata approvata. Io saluto l'onorevole Alessia Morani del PD, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Senta, però una cosa mi sembra che non l'avete calcolata bene, almeno leggevo ieri il Sole 24 Ore, ci sono moltissimi che hanno iniziato le pratiche di divorzio con la vecchia legge, ora possono accedere al nuovo sistema e si parla di 180.000-200.000 casi che potrebbero andare a intasare i tribunali. L'ha letto anche lei ieri il Sole, che dice rischio caos, sì. A questo punto avete fatto qualche pasticcio? No, non è un pasticcio. Questi numeri forse ci danno ragione, nel senso che c'era bisogno di questa legge, perché se ci sono tutte queste cause pendenti e se ci dovesse essere poi la richiesta, come credo anche che possa succedere, significa che il provvedimento che abbiamo approvato è un buon provvedimento che gli italiani aspettavano da un po' di anni. E lei dice giustamente, se in molti si affrettano a usufruire di questa nuova legge, vuol dire che la legge serviva, era attesa da molti, ecco. Io direi di sì, perché un dibattito parlamentare lungo 12 anni credo che sia, diciamo, un po' troppo un lungo, buon tempo. Un tempo per riflettere abbastanza lungo. E però insomma io credo che da oggi davvero l'Italia possa salutare questo provvedimento come un provvedimento che dà una mano a tutte quelle coppie che in questo momento sono in difficoltà e che però questo rischio caos come la mettete? Cioè non è che rischiate di aver fatto una legge che paralizza i tribunali e poi crea al di là poi discuteremo del merito della legge se sia giusta o meno. Sì. No, io questo non lo credo, perché comunque le norme che si applicano al divorzio breve per estensione si applicano anche al cosiddetto divorzio facile, cioè il divorzio e la separazione che si può fare attraverso una convenzione di negoziazione assistita o davanti all'ufficiale di Stato civile, la norma che abbiamo approvato alla fine dell'anno scorso. Quindi il combinato disposto delle due possibilità credo che non creerà problemi. Allora, onorevole... Può darsi che inizialmente qualche problema possa crearlo se davvero c'è un'ondata di richieste. Però sì. piano poi dopo i tribunali si organizzeranno. Onorevole Morani, le presento una persona che è un amico di 24 Mattino, spesso nostro ospite, che sicuramente rappresenta quella parte, io ho detto minoritaria, secondo me, che considera questo un passo indietro, ma lui la penserà ovviamente all'opposto. È Mario Dinolfi. Buongiorno Mario. Ma non ho una valutazione quantitativa, non so se saremo maggioranza o minoranza, non è misurabile, diciamo che è la mia opinione. È la tua opinione. Come sai, nonostante le tante critiche che anche noi ti facciamo, è rispettabile e ti chiamo spesso direttore della Croce, ora è rimasto solo online. Mario Adinolfi, che problema c'è nel divorzio? Spesso tu dici, io da divorziato l'ho vissuto e quindi so che è un dramma, e certamente sì, è un fallimento. Conosco bene il meccanismo, insomma, essendoci passato, e sono convinto che non sia una questione di tempi brevi, anzi forse tempi brevi rendono le questioni più drammatiche, cioè perché l'idea che il vincolo matrimoniale possa essere sciolto in 6 mesi, quindi molto rapidamente, sull'onda anche magari di fatti emotivi, di dati che possono essere legati a condizioni transitorie, tutto questo mina oggettivamente l'istituto del matrimonio. L'istituto del matrimonio è un istituto che diventa molto più labile rispetto a una... Oppure per staccarmi dal mio operatore telefonico è più complicato. Che bisogna fare? Quindi tu dici il fatto di rendere facile lo scioglimento del matrimonio. Non lo dico io, perché io posso avere un'opzione secondo alcuni di natura religiosa. Io leggo i tecnici, anche quelli proprio. Mi telefonava l'altro giorno Anna Maria Bernardini De Pace, l'ha detto pubblicamente, quindi posso. Ed era anche in una trasmissione con me, la Morani a Canale 5, l'ha detta chiaramente. È una legge che favorisce le amanti, è paradossale ovviamente. Favorisce le amanti? Perché insomma, uno... se uno sta dentro a una cosa in cui tradizionalmente avrebbe detto ma il divorzio è una cosa complicata, ci vogliono 3 anni di separazione, invece l'immediatezza del fatto ti puoi sciogliere il vincolo. Ho capito, ma tu la questione. Vuoi invece imbrigliare una persona che magari ha deciso, ma non che voglio imbrigliare, vorrei nel che momento in cui fosse una cosa seria. Ma certo, vorrei ma che certo. Il matrimonio fosse una cosa seria, perché il matrimonio è una cosa così che può essere qualsiasi cosa, può essere, si scioglie facilmente. Matrimonio è un'assunzione di responsabilità pubblica. Non è seria così. Se può essere sciolta facilmente, per te perde di serietà. Tu dici la penso come religiosi. Io vi faccio sentire Don Mazzi, così lo faccio sentire anche all'onorevole Morani. Don Antonio Mazzi la pensa così, la pensa come te. Che figli saranno i figli di domani che hanno genitori che hanno un amore così fragile, così debole, quasi più tagliato sul problema economico che non sul problema affettivo? È vero? Allora, che figli saranno? Onorevole Morani, qui l'accusa forte è quella di avere, di voler minare, se vuole, le basi della serietà della famiglia costituita nel matrimonio. Lei che risponde? Ma io dico di no perché l'ha detto prima di me in questa registrazione Don Mazzi, il matrimonio si fonda sull'amore e questo è la base vera del legame matrimoniale. Però Don Mazzi era critico, appunto, dice che figli cresceranno dai matrimoni labili, no? Però i figli potrebbero crescere in un matrimonio che è purtroppo diventato una fiction e che rimane tale solamente per tempi legislativi. Io lo dico da figlia di separati. Purtroppo quando si arriva alla separazione o al divorzio non è mai un passo semplice, è sempre un travaglio abbastanza lungo, perché non è che a cuor leggero si prende la decisione di separarsi o di divorziare. spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, è un percorso doloroso, di sofferenza, che coinvolge soprattutto i figli, perché poi di questo si tratta. E noi siamo partiti proprio da questo presupposto, e cioè che con la riduzione dei tempi c'è anche una riduzione delle conflittualità, perché spesso, e noi abbiamo preso atto di un dato di realtà, quando le persone si separano o divorziano, spesso c'è già anche un'altra famiglia parallela. Sì. E questa famiglia parallela, incrociandosi con la famiglia che è legata dal matrimonio, crea una sofferenza che è enorme. Che lei dice è inutile prolungare, però è interessante questo punto, perché lei dice quando due decidono di sciogliere il vincolo del matrimonio, in realtà hanno già percorso tutto quel travaglio, quelle problematiche, quelle conflittualità. Allora perché nel momento in cui scelgono allungarli anche a 3 anni di separazione, più magari litigi? Questo è un punto interessante, Mario. Effettivamente non è che uno si sveglia al mattino e dico sai che c'è, mi separo. Ma il punto è che cosa vogliamo farne del vincolo matrimoniale. Che cos'è il matrimonio, vorrei dire proprio una cosa seria che però è una cosa seria che però può anche andare male, può succedere. Certo che può andare male, ma il problema è ed è evidente, la legge sul divorzio c'è, non è che non c'era, diciamo. Cosa vogliamo fare progressivamente? Io ho detto alla Morani, sono pochissime le leggi di iniziativa parlamentare che sono state approvate. Questa tra l'altro l'ha dato atto alla Morani a stragrande maggioranza, 398 voti contro 28, quindi proprio... Ma qual è la ratio che ha questo Parlamento in testa rispetto all'istituto matrimoniale? Che deve diventare una cosa così qualsiasi... Ma no, ti ha detto che nel momento in cui due capiscono... Tra le pochissime... Le 5 approvate per l'iniziativa parlamentare, c'è il divorzio facile. Però scusa Mario, mi sembra che l'abbia spiegato bene l'onorevole Morani. Dice nel momento in cui due arrivano a capire che è il momento di separarsi e hanno già subito tutto il loro percorso di difficoltà, perché allungare tutto questo? 6 mesi per sciogliere tutto, la pressione a rendere, come dire, fragile questa cosa diventa più alta. E dunque il soggetto esterno alla dimensione familiare, per esempio, che si inserisce nella dimensione familiare, sa che lo strumento e il modo per ottenere il suo interesse è immediatamente a portata di mano. Cosa diversa è l'idea che devi attraversare una lunga fase di riflessione nella dimensione familiare che ti sei liberamente scelto, e attraverso poi quella fase di riflessione che qualche volta, non spesso, va detto, qualche volta non porta al divorzio. Però scusa Mario, adesso le statistiche sono piuttosto significative, non tutti separati divorziano. Questo posso dire, posso farti una domanda personale, però Mario, posso farti una domanda personale? Se tu pensi al tuo primo matrimonio, al divorzio, cioè se avessi avuto la possibilità di farlo in 6 mesi, onestamente non sarebbe stato meglio, visto che quella storia era finita? Avrebbe avuto impatto emotivo molto più forte, le tensioni che allora posso dire proprio la mia storia, le tensioni che abbiamo attraversato noi, se fossero state da decidere più corte in 6 mesi, sarebbero divampate in maniera enorme. Ma io invece l'onorevole Morani ci sta spiegando il contrario, no? No, è esattamente il contrario, perché quando due persone sono costrette a stare legate non perché si amano, non perché hanno deciso di percorrere un percorso bello insieme che è quello della vita attraverso la costruzione di tanti passi che insomma li conosciamo tutti con quello che significa la vita di coppia e che si sviluppa nel tempo. Quando purtroppo questo progetto di vita fallisce, perché ahimè succede, non è solo un fallimento della coppia, è un fallimento anche della società, e lo dico davvero convinta, bisogna prendere atto che quel fallimento c'è stato e dare gli strumenti alle persone affinché possano sciogliere quel vincolo nella maniera dice meno traumatica e più veloce, più indolore possibile, no, più veloce, più indolore. Beh, anche veloce in questo caso. Indolore non lo è mai, se posso permettere. Ho detto più indolore possibile, non più indolore. I tempi e la riduzione dei tempi va esattamente in questa direzione, e cioè nella riduzione dei litigi, delle conflittualità di cui, ripeto e ribadisco, spesso sono vittime i bambini, non tanto i grandi. Onorevole Morani, però mi sembra di capire che lei e il collega Luca D'Alessandro, per dire che è un'operazione bipartisan, volete andare oltre e avete lanciato l'idea, ora vogliamo i patti prematrimoniali come ci sono in qualche paese, cioè l'idea di fare che cosa? Un contratto prima di sposarsi, in cui si scrive che cosa? ma in cui si stabilisce prima del matrimonio o anche in costanza di matrimonio, perché il testo oramai è pubblicato, lo si può trovare sul sito della Camera dei Deputati sulla mia pagina, degli accordi attraverso i quali si possono stabilire qual è l'assetto economico e patrimoniale personale nel caso in cui dovesse esserci una separazione o un divorzio. Sì. È un modo questo, sempre nello spirito del divorzio breve, nel momento in cui i futuri sposi sono tra virgolette in pace, e cioè non ci sono conflitti, possono decidere nel momento in cui per caso dovesse succedere di separarsi, di far valere questo accordo. Quindi diciamo agevolano anche il lavoro degli avvocati, perché c'è un contratto, cioè aveva stabilito prima. Sì, che di fatto è una convenzione nel disegno di legge che abbiamo depositato, che può essere fatta nella nostra idea sia da notaio che da avvocato. Mario, che c'è? Guarda, bello, sposiamoci pensando già al divorzio, che è una cosa fantastica. Si può sciogliere in 6 mesi, pensiamo già al divorzio. Anzi, ma vabbè, ma è come quando adesso lampo. Posso ma scusa Mario, è come quando uno faccio un paragone di questo tipo. Mario, lo so che è un paragone diverso, tutto buono, però non ditemi che questa roba aiuta la famiglia. No, ma ti dico quando tu fai un viaggio, fai un'assicurazione, che dovesse andare male c'è un'assicurazione. Ma tesoro mio, ma questa cosa qui vuol dire che tu entri nella dimensione del matrimonio già con lo spirito del divorziato. Ma no, con lo spirito, no. Ma se devo pensare a come divido già prima, come divido i miei averi, le mie cose, ragazzi, ma questo vuol dire devastarlo questo istituto, diciamolo con chiarezza. Non ci piace il matrimonio. No, invece è il contrario. Il matrimonio, non ci piace la chiesa, non ci piace... allora vogliamo devastarlo. Perché è il contrario, onorevole Morani? Effettivamente vuol dire che uno un po' ci pensa all'eventualità del divorzio, no? No, è il contrario, perché proprio perché il matrimonio è una cosa seria, serissima, ci si impegna da principio a dire che purtroppo, se dovesse succedere che il matrimonio finisce, si stabilisce da prima che cosa succede dopo. E cioè, io lo chiamo un gesto d'amore, perché nel momento in cui due persone stanno bene assieme, si prendono cura dell'altro anche nel caso in cui il matrimonio dovesse finire. E questo è lo spirito con cui abbiamo presentato questo disegno di legge, non certamente per minare le basi della famiglia. E la famiglia, secondo me, non si tutela con tempi lunghi delle separazioni, del divorzio, ma si tutela con delle politiche attive per la famiglia, che sono altro, che non riguardano la separazione. E guardate, su questo tema torneremo, perché sui patti prematrimoniali io vi prometto, Marione, che faccio, vi rinvito, tanto questi temi sai che li affrontiamo, ti va bene? Divorzio facile, divorzio. Pensiamo pure alle politiche familiari, come appunto fare solo queste, facciamo ogni tanto pure una politica per la famiglia. Si fa solo la politica per farci. Tu dici per distruggere la famiglia. Ma no, dai, non è così, Marione. Comunque vi reinvito, è sempre aperto. Alessia Morani, grazie, deputata del PD, e Mario Ninolfi, direttore della Croce. Avremo dopo la pubblicità il senatore Michele Giarrusso. Mario Michele Giarrusso siede nella commissione parlamentare antimafia. Oggi questa commissione dovrebbe dare un elenco di politici impresentabili alle regionali. Con l'elenco siete pronti, carta e penna? No, non ve le posso dare io, ma verranno resi noti oggi. Ma discuteremo con Giarrusso. Sono le 8:40 minuti in punto, quando vogliamo tornare sul tema dei cosiddetti impresentabili, una nuova categoria spuntata da inchieste di giornali e finita poi anche all'attenzione della Commissione parlamentare antimafia, che oggi, udite bene, oggi dovrebbe rendere noti alcuni nomi di candidati alle regionali che sono considerati, in base a criteri che adesso cercheremo di capire, impresentabili. Saluto il senatore Mario Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Buongiorno senatore. Buongiorno, grazie per l'invito. A lei, lei siede in questa commissione parlamentare antimafia. Intanto ci aiuti a capire le cose tecniche, poi so che ha fatto delle critiche e le espliciterà, ma le questioni tecniche sono, verranno resi noti oggi questi nomi? Allora, non si sa, perché ci sarà una votazione nell'ufficio di presidenza. Sì. Lei, come sa, l'ufficio di presidenza non è composto dal plenum di 50 membri della commissione, ma soltanto dai capigruppo e poi quelli che hanno cariche nella commissione. Voi del Movimento 5 Stelle come voterete per renderli noti? Noi abbiamo già chiesto che venissero resi noti da subito i nomi e che venisse anche allargata la platea dei nomi. Ecco, sull'allargata la platea adesso vediamo, perché questi nomi, ma scusi, adesso non è che lei ce li può anticipare, ma circolano già, cioè lei li sa questi nomi? Allora, il problema è che siccome la commissione ancora non si è pronunciata, noi non sappiamo chi ci sarà dentro e chi ci sarà fuori da questi nomi. Io posso Li avrete discusse in commissione? Certamente che l'abbiamo discussi. Il problema è se non si vota, no? E fino all'ultimo qualcuno può essere espulso o inserito. Ma chi decide se inserire? Nell'ufficio di presidenza sempre si inserisce? Nell'ufficio di presidenza, dove noi ovviamente siamo in minoranza e combattiamo perché vi sia il massimo della trasparenza, ma anche vi sia il massimo della logica. Diciamo, di quanti nomi in totale si è discusso? Di tutti, ma quanti sono finiti all'attenzione? Potrebbero, cioè se venisse utilizzato... Adesso sarebbero 13 su 1500 candidati, una cifra veramente ridicola che 13. Rende bene l'idea insomma della inutilità del lavoro di questa commissione antimafia così condotta. Lei pensi che sono un terzo dei nomi, soltanto un terzo dei nomi che voi della stampa avete già individuato, quindi nemmeno buoni per fare la rassegna stampa, cioè bastava leggere i giornali, esattamente, cioè sì. Quelli che sono stati lei dei nomi li può fare di quelli già usciti o no? Le ripeto, io non li vogliamo fare adesso perché non sappiamo quelli che non vogliono fare veramente. Comunque sarebbero 13, cioè se mantengono la manica larga, se mantengono la manica larga e li pubblicano tutti, sono 13. Allo stato sì, può essere che se ne aggiunge qualcuno oppure viene depennato qualcuno. Vabbè, diciamo 13 più o meno è una cifra. Ma sono tutti nomi già usciti sulla stampa, ripeto, quindi non, so. Non ci sono novità, però io non è che li posso fare. Ma perché lei dice incredibile? Cioè che criterio è stato usato per definire impresentabile uno di questi 13? Allora, le spiego. Prima delle elezioni europee era stato fatto un codice di autoregolamentazione che riguardava i partiti e la composizione che era, diciamo, noi lo abbiamo appena tollerato perché era molto burocratico e formale, cioè c'erano chi era imputato per alcuni reati, ovviamente connessi alla mafia, che era stato condannato, eccetera, quindi proprio molto restrittivo. Ma questo, e qua c'è stato l'equivoco, non è un codice di autoregolamentazione che serve a limitare il lavoro della commissione. Doveva ovviamente dare un'indicazione ai partiti per fare le liste, dopodiché la commissione ha dei poteri di indagine che sono propri e sono poteri forti di indagine, ma che non vengono utilizzati. Ma mi scusi, però mi faccia capire, che ne so, un indagato per lei, indagato, quindi neanche rinviato a giudizio, perché il procuratore nazionale antimafia, Roberti, a questi microfoni una settimana fa ha detto il discrimine è il rinvio a giudizio. Se uno ha un rinvio a giudizio, secondo me, secondo il codice appunto di autoregolamentazione, non è candidabile, ma se uno è solo indagato, è candidabile. Allora, il punto è uno. Non è soltanto essere indagato, perché secondo noi ci può essere anche un incensurato non indagato, ma se è il figlio del boss mafioso e viene appoggiato da tutta la cosca ed è una cosa nota, va indicato come... Certo, ma deve essere nota al partito che si assume la responsabilità di candidarlo. Deve essere nota in questo caso, a questo punto, alla commissione, che deve svolgere dei poteri di indagine. Ripeto, la commissione nasce non per fare il medesimo lavoro della magistratura, perché c'è già la magistratura che lo fa meglio, ma fare indagini, ma proprio per fare quelle indagini nell'ambito di quella zona grigia del non ancora condannato, del non ancora indagato o del penalmente. Ma sulla base di che cosa? Sulla base di voci, di articoli, sulla base di cosa? Noi possiamo esercitare i poteri dell'autorità giudiziaria, noi possiamo chiamare le persone a testimoniare con i poteri dell'autorità giudiziaria, non l'abbiamo mai fatto con la Bindi e temo che non lo faremo. Malgrado noi lo stiamo richiedendo da almeno un anno e mezzo. Cioè lei dice che tutta questa procedura sull'impresentabile è stato un fallimento della commissione. È il fallimento, ma è il manifesto del fallimento di questa conduzione scellerata della commissione antimafia. Cioè lei ce l'ha con la commissione presidente. Antimafia, ma ce l'ho col partito di maggioranza che fa il bello, il PD che fa il bello e il cattivo tempo nella commissione antimafia e la paralizza, cioè non la fa andare avanti. Il punto è uno, ci sono state commissioni antimafia autorevoli, per esempio, che hanno fatto l'indagine sui territori, hanno fatto schede sui politici, schede sui politici, la commissione e che fa? Le parole... era quella di Chiaramonte e le pare una cosa giusta, una cosa seria fare una cosa giusta, aveva anticipato il lavoro della magistratura di anni, aveva individuato la mafia e i suoi referenti politici, un lavoro strepitoso quello di queste schede. Il vero lavoro, ripeto, la commissione antimafia nasce per indagare quella zona grigia, quella zona della opportunità politica, lo diciamo tutti. Questo non deve solo essere onesto, deve anche apparire tale. Ma mi scusi, 1500 candidati. Intanto le chiedo, tra gli impresentabili c'è qualche candidato governatore? Ecco, questa è l'altra questione. Il candidato governatore De Luca, che già ha una condanna, non viene inserito fra gli impresentabili perché la condanna non attiene a reati di mafia. Ma se noi diciamo che i politici che hanno delle condanne sono il primo passo, cioè la corruzione è collegata sicuramente alla mafia, apre porta alla mafia. I reati collegati, e questi lo sono, alla pubblica amministrazione sono un indizio che un soggetto già ha male operato. Vabbè, ma qui c'è tutta, tanto c'è tutta la questione della legge Severino, lo sa, insomma. Sì, ma noi qua non è che siamo in un tribunale. No, ma è chiaro, lei ha citato la vicenda De Luca, è notoria, insomma, la questione. È chiaro, non lo voglio inserire nemmeno quello, non è reato di mafia, non è impresentabile. Ma mi faccia capire su questi 1500 lei, voi, quanti ne avete visti del Movimento 5 Stelle che puzzavano per voi, puzzavano di impresentabilità? Ma innanzitutto la stampa ne ha visti due terzi in più, solo la stampa, e già basterebbe questo per dire, ripeto, noi stiamo parlando qua in questo momento della commissione antimafia di come opera, quindi già, ripeto, neanche buoni a fare la rassegna stampa sono questa conduzione della commissione di mafia. Ripeto, noi dobbiamo capire qual è l'obiettivo della commissione di mafia. È una commissione che deve indagare e noi dobbiamo anticipare il la lavoro magistratura. E questo è chiaro, o anche indagare dove la magistratura non può indagare perché siamo sull'irrilevante ma sull'importante dal punto di vista con anche delle schedature. Lei dice, ma le schedature sono state fatte, un po' mi inquieta l'idea, per carità, sarà una schedatura nel senso che sono state fatte schede, non è una schedatura, sono state raccolte sul campo tutte le informazioni sui veri referenti della mafia nei territori, ripeto, e hanno anticipato di anni il lavoro della magistratura. Comunque, senatore Giarrusso, a che ora scopriremo se viene resa nota tutto questo? Perché devo andare a chiudere col traffico. Questa è buona la domanda. Saperlo anche noi. Quando si vota in ufficio di presidenza? Ma dovrebbe essere in mattinata, poi allora dovrebbe essere anche una conferenza stampa. Dico ci dovrebbe essere perché la conferenza stampa all'inizio la scorsa settimana nemmeno se ne parlava, la vergogna anche del risultato. Devo dire, comunque qualche nome filtra anche oggi sui giornali. Flash, proprio per capire a che cosa serve tutta questa pagliacciata. Serve a dire, come ha detto un politico di Aria PD in commissione antimafia, che era con me in trasmissione, avete visto, su 1500 candidati solo 13 sono impresentabili. È andata bene, i candidati vanno bene. Solo 13 su 1500. A questo giro è andata bene. È andata bene. Hanno capovolto il senso della commissione antimafia. Va bene, la ringrazio, senatore Mario Giarrusso, Movimento 5 Stelle in commissione antimafia. Staremo a vedere oggi, intanto il traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Ebbene sì, cari ascoltatori, allora ci mandate sempre tante mail, 24mattino e radio24.it, dei lavori che fate con amore, con passione. Devo dire che molte sono legate al cibo, proprio basta accendere le TV, no? Adesso ci sono tutti i programmi sul cibo, il cibo, e allora eccolo qua, Andrea, buongiorno. Buongiorno Alessandro, ciao. Andrea è un cuoco a domicilio, devo subito suggerirlo a mia moglie. Allora... Andrea, cioè che fai tu? Vai nelle case a cucinare? Sì, esattamente. Praticamente se c'è qualcuno che non ha tempo, non ha voglia, non sa far da mangiare, mi contatta, gli suggerisco un menù e dopodiché faccio un sopralluogo, faccio la spesa. Cucino tutto interamente a casa di Adesso. Vedi, hai detto non ha tempo. A non casa ha... tua che mi chiami. Infatti, ha detto non ha tempo, non ha voglia, non è capace. C'erano esatto. Tutte le caratteristiche di mia moglie, per quello che dicevo, no, Andrea. Allora, è un lavoro che si è diffuso sempre più. Cioè, l'idea invece, non vado al ristorante, non vado, voglio mangiare a casa mia, ma voglio un cuoco che mi cucina bene. Però la spesa, attenzione, fammi capire, la spesa la deve fare la persona che ti chiama. No. Nel caso mio la faccio io la spesa. La fai tu. Cioè, io ti faccio tutto, praticamente ti sollevo da qualunque tipo di impegno. Perfetto. Per cui te non hai, devi solo aspettare che arrivi in tavola. Io scelgo il menù. Almeno. Esattamente, scegli il menù. Io scegli voglio il mangiare menù, questo. Concordiamo insieme. Esatto, questo, siamo in due, siamo in tre, tu vieni a casa e fai tutto il lavoro, cioè alla fine anche metti a posto tutta la cucina. Cucino tutto e poi pulisco e lascio in ordine la cucina, in modo che uno trovi tutto come prima, alle volte anche meglio. Andrea, ma secondo te perché si è diffusa sempre più questa tipologia di lavoro? Cioè, allora, si è diffuso di più un po' perché c'è la moda del cibo, del cucinare, un po' perché è un mestiere un po' figlio della crisi e terza ragione, le persone non sanno cucinare sempre meno. Cioè si tramanda sempre meno di generazione in generazione quello che una volta facevano le nonne. Di conseguenza, che vivo a Bologna, i tortellini, chiaro, quelli della mia età, sotto i 40 anni più o meno, non li sanno più fare. Molti, non dico tutti, per fantastico. Carità. Adesso ci saranno dei bolognesi subito e delle bolognesi che si lamenteranno. Sì, arriveranno meglio. Adesso a dire io sono capace. Come si permette, Andrea, a dire che nessuno è capace di fare i tortellini? No, nessuno no, però insomma una volta lo sapevano fare tutti, adesso non più tutti. Questo però dal tuo punto di vista, cioè figlio della crisi, eccetera, ma secondo te perché la gente ha proprio la voglia, la passione di dire chiamiamo un cuoco a casa, è più un divertimento, una cosa che uno fa una volta oppure è una cosa strutturale? No, strutturale non lo è onestamente, però da fare ogni tanto quando hai un numero di persone che diventa troppo impegnativo per le quali dici io non ho voglia, cioè non c'ho voglia di cucinare dalle 11 di mattina alle 8 di sera e poi soprattutto non godermi i miei ospiti, certo, perché se tu hai 10-12 persone a cena tu sei sempre in cucina, non è che stai lì a divertirti. Di conseguenza è per questo. Chiami una persona. Alla fine mi chiama. Tuo menù forte? Tuo piatto forte? Mio piatto forte è una cosa un po' vintage, un po' anni 70 se vogliamo, comunque un filettino di maiale con una salsina leggera di senape fiammato col brandy e accompagnato dal jacket potatoes. È fantastico. Ma tu sei proprio un cuoco, cioè hai fatto scuola, hai fatto... No, io non ho formazione di cuoco. Io sono uno che è sempre stato appassionato di cucina fin da piccolo, nato in una famiglia dove si cucinava. Cucinava meravigliosamente e che poi ha sempre cucinato fin da ragazzino per i capodanni, le cene tra amici. Fantastico. E tutto. E poi è diventata la passione, è diventato mestiere nel momento in cui... ti sei buttato. E allora Andrea, è il momento di farti un po' di pubblicità. Hai un sito, hai un modo per essere contattato? Certamente, il sito è homecooking.it. Vabbè, chi sa l'inglese, no? Cucinare a casa, homecooking.it. Esattamente. Per chi non sa l'inglese, come al solito, la mail è nostra, è quella di appoggio www.24mattinoetradio24.it. Scrivete a noi e noi vi daremo tutti i contatti per Andrea che fa il cuoco a domicilio. Grazie Andrea, un abbraccio con te. Grazie, concludiamo. A te. Saluti a tutti. In bocca al lupo ovviamente per questo lavoro e con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè vi diamo appuntamento a domani. Quattro mattino.